Laura, dal sorriso d'un angelo, dolce Laura, dal profumo d'un fiore, sei tu per me l'illusione d'amore che avvolge nel mistero il cuore. Oh Laura, Laura, misteriosa e dolcissima, dimmi, dimmi, se è illusione o realtà. Quel sogno d'or che sperar mi fa, dolce Laura, quel mio sogno sei tu, pieno di mistero, sogno d'amore, sogno d'amore. Oh Laura, Laura.